prazer. A nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia aqui. Tutti convocati. Di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ancora contro Manolas, allarga per Bolaños, va giù Manolas e poi si rialza. Bolaños, c'è anche Borges in area di rigore, Bolaños è dietro per Ruiz! Il vantaggio della Costa Rica, ancora con il capitano, con il numero 10, Brian Ruiz, 1-0. Papastatopoulos per Gekas, si gira, Papastatopoulos, il pareggio della Grecia con Socrates, Papastatopoulos, questi non mollano mai, 1-1. Si andrà ai calci di rigore, Gekas e para Keylor Navas, va Umaña! La Costa Rica per la prima volta nella storia raggiunge i quarti di finale di un mondiale. Francisco Rodriguez a lanciare per Peralta, c'è Giovanni Dos Santos che la mette giù col petto, lo insegue Blind, ancora Giovanni Dos Santos, calcia in porta! Giovanni Dos Santos, un gol spaziale! Ancora Robben, scavalca anche Ochoa, Untelar fa la torre, arriva Robben, sterza ancora, giù, calcio di rigore per l'Olanda, Untelar contro Ochoa, destro, Klaas-Jan Untelar, l'Olanda vola ai quarti di finale. Che numero! Eh sì ragazzi, c'è chi va avanti ai mondiali anche con molta fortuna, con l'aiuto delle stelle, all'ultimissimo istante o per un rigore segnato o sbagliato, il Brasile ha aperto questa strada e tutte le altre dietro. Avete visto ieri l'Olanda, che offre anche qualche interessante spunto di discussione, perché in molti hanno notato come sia la squadra più catenacciara di questo mondiale, ovviamente catenaccio con giudizio, perché quando davanti hai giocatori come Van Gaal ha, allora puoi anche giocare con quella intelligenza. Costa Rica, vabbè, i nostri amici della Costa Rica sono riusciti a buttare fuori una Grecia meravigliosa come spirito. Anche la Grecia pareggia al 92esimo, tra l'altro ha giocato in superiorità numerica per un'ora, dal 66esimo del secondo tempo fino alla fine dei supplementari, ma i rigori hanno detto male ai greci. Dunque, questo è ciò che è successo stasera. Abbiamo insomma la proiezione di un probabile super derby europeo nei quarti di finale. Francia-Nigeria, Germania-Algeria, chi passa si sfida. Attenzione all'Algeria, Germania una delle grandi favorite, però l'Algeria mi sembra una squadra estremamente interessante. Mentre gli altri giocano e si divertono con il loro mondiale, il nostro mondiale a questo punto è questo qui. Allora aspettate che pesco l'agenzia. Consiglio federale al via, ma al momento non c'è alcuna intesa sul nuovo CT. La pre-riunione dei presidenti delle componenti della Federcalcio, voluta dal presidente dimissionario Abete, è ancora in corso e fa slittare di qualche minuto l'inizio del consiglio, ma l'indirizzo che trapela dall'incontro preliminare è che a scegliere successore di Prandelli alla guida della nazionale debba essere il nuovo presidente federale, che quindi verrà eletto tra un po', candidato numero uno Tavecchio, e quindi bisognerà attendere per il CT. Ma c'è già il Toto CT, anzi lo chiediamo anche a voi, il Toto CT, mandateci un file audio www.radio24.it, file audio con il vostro Toto CT. Diversi, verrete qui a ritirare la maglietta di tutti i convocati naturalmente, diversi hanno i loro candidati e diversi hanno già cominciato a tirare le volate, ad esempio Corriere dello Sport in apertura, Mancini Italia si può, molte ragioni per preferire Roberto Mancini rispetto a Guidolin e ad Allegri o a Spalletti. Mega male no ragazzi, ma Mancini piace molto anche a me come CT, mi sembra tra questi il profilo migliore. Intanto poi c'è, allora, altri temi, c'è, beh, questa è bellissima, il nostro mondiale sarà anche quello al Consiglio federale. ma il mondiale dei nostri amici uruguayani è invece questo. Il presidente uruguayano José Mujica ha definito ieri sera la FIFA una banda di vecchi figli di puttana, virgolette, dopo la sanzione inflitta a Luis Suarez per il morso a Chiellini. La FIFA è una banda di vecchi figli di puttana, è giusto che puniscano, ma non che infliggano sanzioni fasciste, ha detto Mujica. ¿Qué significó para usted este mundial? Cuénteme. ¿Qué le quedó? Que la FIFA sea una manga de viejo hijo de puta. ¿Hoy? ¿Lo publico esto? Publicalo, publico. Ego de puta, sapete cosa vuol dire? E poi ho messo la mano avanti alla bocca, Giorgio ha detto, ma pubblico? E lui, ma pubblicate, ma fate quello che vi pare. Tanto possibili squalifiche in arrivo, abbastanza comica dovesse essere, comica ma anzi, di un peso specifico enorme, quella che potrebbe toccare a Neymar, che ha mostrato mutande sponsorizzate. C'è un precedente con l'elastico sponsorizzato, c'è un precedente di Bender, allora la squalifica arrivò. In questo caso mi permetto di dubitare, non so se invece potrà essere passibile di squalifica, qui sarebbe anche un autogol clamoroso, Robben, che ieri ha confessato in conferenza stampa molto candidamente: ragazzi, nel primo tempo c'è stato un contatto in area, ma mi sono buttato, in quel caso mi sono buttato. Il secondo rigore invece c'era. Se passa la linea Blatter, se passerà la linea Blatter, questo è un altro bel tema di discussione, un tema che a voi piace molto, vi fa ingrifare da morire. 800240024. Se passa la linea Blatter, occhio che potremmo avere presto la moviola in campo, il sogno proibito di un sacco di italiani. Traffico. L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. Tutti convocati. Io penso meglio mantenere l'allenatore, perché l'allenatore faceva un bel lavoro, faceva questa transizione De Rosa, faceva questa transizione principalmente di filosofia calcistica, del modello di gioco, e utilizzava insieme qualche giovane con qualche giocatore con più età e con più curriculum e storia, e mi sembrava, dall'inizio mi sembrava una combinazione perfetta. Dopo la partita con l'Inghilterra, quello che è successo nelle due ultime partite per me è stata una sorpresa negativa tremenda, e non mi aspettavo dopo tutto quello che è successo, che si è parlato, e divisione spogliatoie, che sono cose che solamente chi è dentro, solamente chi è lì può parlare, può spiegare veramente quello che è successo. Emiliano Mondonico, non dirmi che sei d'accordo con Mourinho. Ciao. Bisogna per forza essere d'accordo con Mourinho, perché altrimenti non sai più con chi essere d'accordo. Per principio. E allora, piuttosto che nessuno, siamo d'accordo con Mourinho, con tutti quanti. Io che avevo pronosticato l'Italia campione del mondo. Siamo in due, siamo in due. Che in questo momento sto riflettendo in mezzo ai pomodori. Ai pomodori? Pensavo fossero le prugne. No, le prugne le ho raccolte stamattina, adesso sono i pomodori, che ho capito perché non li hanno tirati all'arrivo dei nostri nazionali, perché non sono ancora pronti. Ah, per quello, infatti me lo domandavo anch'io. Sennò... Tutta quest'acqua ha dato verde, ma non ha dato ai pomodori la giusta maturazione. Certo, e quindi... perciò non si poteva mica tirare le piante. E quindi ai ragazzi è andata bene. No, ci eravamo lasciati aspettando con grande fiducia Costa Rica. Ti ricordi, Emiliano, ci ritroviamo tra i pomodori, a raccogliere i pomodori quando saranno maturi. Ci sono 23 braccianti in più eventualmente disponibili, anzi 24, mettiamoci anche Prandelli. Ci ritroviamo pieni di delusioni, noi che speravamo che il calcio facesse da traino un po' a tutto il pessimismo che ci circonda. Invece bisogna trovare qualche altra soluzione, bisogna trovare, speriamo che chi di dovere trovi, sì, trovi qualcosa che chiaramente ci tiri su, non solo di morale, ma anche di, anche in altre cose. Il calcio purtroppo si è adeguato alla, al trend nazionale, così, al, certo, alla forza del paese. Perché? Perché è successo? Ognuno lo dice a modo suo. Noi l'abbiamo detto prima che incominci. Ed è chiaro che chiediamo venia se abbiamo un po' sbagliato tutto quanto. Un po' no. Ci credevo. E, sì, anch'io. E vabbè, e in questo momento... Sai cos'è mister? Che alla fine abbiamo capito anche molte cose, perché per una volta il modo è stato peggiore rispetto al risultato. Un sacco di stracci che volavano per lo più in direzione di Barotelli, comportamento e una reazione che a me non è piaciuta, non lo ripeterò più perché l'ho già detto molte volte, da parte dei senatori con queste pubbliche accuse. Poi sono state le parole di Cassano. Insomma, è chiaro che questa squadra non funzionava in campo. È vero che c'era solo un sacco di confusione, ma principalmente fuori dal campo. E dopo che arriva si salve chi può. E allora saltano fuori gli amici degli amici. Bravo. Saltano fuori tante cose. Sai quante volte io, soprattutto nelle annate che sono retrocesso, sono saltati fuori di tutto, di più, perché ognuno cerca di salvaguardare se stesso. Ed è chiaro che l'allenatore è un po' in mezzo, non più al guado, ma in mezzo a un fiume in piena, e non ti salvi né andare da una parte né andare dall'altra. Devi solo sperare nella buona sorte. Sì, non dovevano esserci, ma non mi hanno assolutamente meravigliato. Non ti hanno meravigliato? Fa parte del gioco il si salvi. E si sa di chi può, e se sono usciti è perché, non so se vi ricordate, ma già erano usciti notizie sull'infortunio di Buffon che non dovevano uscire. Già erano uscite notizie sull'eventuale presa di posizione di Balotelli tra il primo e il secondo tempo. Quando negli spogliatoi ci sono troppi orecchi che vanno a riferire, diciamo che la situazione è chiaramente ancora più difficile di quanto non si presume. E Cesare è finito un po' prigioniero, Cesare è finito un po' prigioniero. Chiaro, c'erano tante orecchie, forse i muri, invece di essere muri, erano degli impianti di amplificazione che facevano capire a tutti quello che succedeva. In uno spogliatoio, credimi, succede tutti gli spogliatoi. Poi dopo il risultato o mette tutto a tacere o fa scoppiare l'inverosimile. Perciò non meravigliamo. La cosa che mi ha dato più fastidio è stata l'indifferenza. Sì. Perché alla fine del calcio non è la contestazione o i rimbrotti, certo, o è colpa mia, colpa tua, colpa l'altra. La fine del calcio è l'indifferenza. Certo. Io mi auguro che non ci sia mai l'indifferenza. Ecco perché preferivo i pomodori, preferivo la contestazione, perché vuol dire che c'era ancora un'anima pugnante che combatteva. L'indifferenza chiaramente fa più paura di tutti, perché vuol dire che non gliene frega più nessuno. Sì, senti, ma questo non è una buona cosa. Nella sostanza tu sei d'accordo con quanto detto da Buffon e De Rossi, e per inciso a me non è piaciuto nemmeno il fatto, la retromarcia di Pirlo, e il fatto comunque che questa vecchia guardia della nazionale abbia detto: chiunque sia il nuovo CT, noi siamo qui, dovrà fare i conti con noi. Ma è chiaro che il CT che arriverà ha un compito difficilissimo, perché sostituire Prandelli adesso sembra facile, sembra semplice, adesso sembra che ti basti giocare con tre attaccanti, sì, per essere migliore. Però Prandelli ha fatto un lavoro incredibile, e se ha fallito Prandelli vuol dire che i problemi sono ancora più grossi di quello che pensavamo. Io credo che se fossi uno della federazione, la prima mossa che farei sarebbe andare da Prandelli e dirgli perché non ritira le dimissioni, perché io sono ancora convinto che meglio di Prandelli non ci può essere nessuno, e chi arriverà avrà ancora più gatte da pelare. Sì, è arrivato, però Emiliano, mentre ha approcciato in maniera fantastica l'europeo, ma come tutto quanto, come costruzione della squadra, marcia di avvicinamento, scelte, fisionomia della squadra, cioè siamo arrivati là sapendo che qualcosa in mano avevamo, non sapevamo con quale valore agli europei. Qui invece ho sempre avuto la sensazione, ci auguravamo di no, ci auguravamo qualcosa di diverso, cioè che fosse un pre-tattica o un quadro differente. La verità è che a me l'Italia è sembrata solo un gran casino di idee. L'Italia, non dimentichiamoci dei due incidenti che hanno condizionato le scelte di Prandelli. L'incidente di Montolivo che ha tolto un po' quello che il quadrilatero, quello che la mossa sorpresa degli europei. E perciò ha costretto Prandelli a cambiare proprio tipologia di gioco, ma soprattutto l'infortunio o la non disponibilità di Pepito Rossi. Uh-huh. Pepito Rossi proprio nell'idea di Prandelli era l'unico attaccante che poteva giocare in coppia con Balotelli per giocare bene Balotelli, perché Balotelli è anarchico, individualista, gioca per conto suo, è giusto che faccia l'unica punta perché non fa movimenti in funzione degli altri, fa movimento per andare lui alla conclusione, per andare a lui al gol, e perciò è difficilissimo trovargli un compagno di reparto, perché deve essere tatticamente intelligentissimo, perché ha queste qualità, sì, e caratteristiche, sì, certo. Purtroppo anche Prandelli ha dovuto arrendersi. Ma infatti era la coppia ideale, quella... era la coppia che dà più garanzie, sì, poi sì. Dopo non so se fosse quella ideale, perché abbiamo visto la coppia Balotelli Immobile non c'entrava niente nell'ultima partita, proprio che si sono annullati l'uno con l'altro. Mi sembrava quando giocavano assieme nel Milan Inzaghi e Gilardino, cioè, sì, che uno giocava bene e l'altro giocava male. Ma poi stessi movimenti, tutte e due su un palo, tutte e due sull'altro, vanno in verticale e invece uno di allargarsi e l'altro di puntare alla porta, succede il contrario. Anche lì un gran casino, ma dovuta a due giocatori che non sanno usare. Per prendere al meglio Balotelli, che volenti o nolenti è il miglior attaccante che abbiamo in Italia, volenti o nolenti. Nolenti la maggior parte, lo sai. Ma sì, ma è chiaro che in questo momento la logica è questa: l'attaccante migliore che abbiamo in Italia è Balotelli. È chiaro che bisogna trovare uno che giochi in coppia con lui, che lo faccia giocare bene anche tatticamente. Certo. Ecco perché la figura di Pepito Rossi era fondamentale. È diventata così determinante che Prandelli l'ha aspettato fino agli ultimi giorni. Senti Emiliano, ti posso chiedere un'ultima cosa al volo? Un'ultimissima cosa al volo. Quanto hai goduto a vedere l'Olanda fare catenaccio ieri? Ma tutti fanno catenaccio. Ormai una delle problematiche è che noi che pensavamo di essere tatticamente i migliori del mondo, ci siamo, e tutti gli altri ormai hanno imparato tutto. E perciò diciamo abbiamo trasportato attraverso le nuove vie di comunicazione il nostro modo di essere in tutto il mondo calcistico, e perciò non possiamo più neanche sorprenderli tatticamente. I 10 dietro la linea della palla, tu dimmi se c'è una nazionale che non lo fa. E cosa vuol dire giocare in 10 dietro la linea della palla? Quando allenavo io era il catenaccio, sì. Adesso può darsi che sia il calcio moderno. È il calcio moderno, naturalmente, of course. Grazie professore. Volevo dimmi. Volevo come ultima idea, sì, dirvi che ho nella testa di rimettermi ad allenare e partire dai disoccupati, da quei ragazzi che non hanno più un contratto e che si trovano in grande difficoltà. Lo farai? Ecco, può darsi che riparta da questa situazione per cercare di dare ancora una chance a chi purtroppo per tantissimi motivi in questo momento si trova in difficoltà. E allora buon lavoro Emiliano, ti seguiamo, speriamo, con attenzione sempre. Speriamo bene e parliamone. Ma okay? Parliamone altro che. Ciao Emiliano, grazie. Grazie a voi, grazie, e buona giornata. Grazie Emiliano Mondonico. 800 24 00 24, ci vediamo per la borsa, poi c'è già Adriano dalla provincia di Bergamo. E visto che il progetto tecnico è di mia responsabilità, ho detto loro che rassegno le mie dimissioni. Applausi per lui, pubblicità per noi. Tutti convocati. Lo ammetto, mi sono tuffato, non era stato commesso nessun fallo, è davvero stupido, non dovrei fare queste cose. Furia del Messico, l'arbitro va da casa insieme a noi. Questo è successo dopo l'Olanda-Messico di ieri, ma magari tra un po', dato che Blatter ha un dannato bisogno di consensi, ecco che apre l'ultima porta, quella segreta, quella proibita, quella... Fatemi sentire come siete, come state godendo per l'idea di Blatter della Moviola in campo. 800240024 è il numero verde. Adriano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Permettetemi di salutare Mister Mondonico, a cui noi bergamaschi siamo sempre molto affezionati. Certamente. Io chiamavo solo per chiedere una cosa. Ma è un'eresia pensare a un mister, a un commissario tecnico straniero per la nazionale? Cioè, Russia e Giappone insegnano. Io dico che, non so, con uno come Mourinho andremo molto... Allora Russia e Giappone insegnano che sono andati a casa. Con Capello che ne becca 8 dalla Russia di milioni di euro all'anno. Ecco, questo è un punto. Allora, io in linea di massima sono d'accordo. Anche a me, a questo punto del nostro pallone, a questo punto per come è ridotto questo movimento, con due fallimenti consecutivi e un sacco di perplessità, va bene che questi sono i giorni della grande depressione e anche con questo sentimento dobbiamo fare i conti, però l'idea di un commissario tecnico non troppo immischiato, non troppo coinvolto, magari di grande carisma e di esperienza, potrebbe essere a questo punto qualcosa di realmente diverso, di realmente intrigante. Poi è chiaro, lei fa il nome di Mourinho, chi lo paga, Adriano? Chi paga Mourinho? No, perché, è difficile. Perché se il budget è andando bene quello che pigliava Prandelli, cioè circa 1,7, buttiamoli in numeri, in vil denaro, perché alla fine bisogna fare i conti con sta roba qua, come si fa ad andare a prendere, ma anche se fosse non è straniero, ma anche se fosse Carlo Ancelotti, è chiaro che è la figura che avrebbe maggiore credibilità di tutti, è a tutto quello che serve per essere il commissario tecnico perfetto, com'è il perfetto allenatore di grandi squadre, solo che bisogna fare i conti anche con questo problema, no? Bisogna fare i conti con questo problema. Leggo che Mancini, che pure beccava un sacco di soldi nelle sue ultime uscite, nelle sue ultime incarnazioni, Manchester City, anche Galatasaray, ne prendeva tanti intorno ai 5 se non ricordo male, leggo che sarebbe disposto a ridursi lo stipendio. Questo gli fa onore, vediamo se sarà questa la scelta. Marco Firenze, buongiorno. Buongiorno. Lei gode per la Moviola? Allora, faccio una premessa, che io non mi intendo particolarmente di calcio, normalmente sì. Seguo solo gli europei e i mondiali, proprio sì. Perché mi piace vedere un calcio di alto livello. Però sono un po' colpito dalle riflessioni che sono state fatte in seguito alla nostra sconfitta. Anche dalla vostra trasmissione che seguo per simpatia, perché siete troppo divertenti. Grazie. E soprattutto mi colpisce questo, cioè qui siamo già fuori il toto allenatore. Sì, beh, è chiaro. Ma la mia domanda è questa, cioè, io ho l'impressione un po' da profano che questa sconfitta non sia altro che una punta di un iceberg, cioè che sotto ci sia un movimento calcistico molto in crisi, che ci sia dei grossi problemi con i club, fra i club e la nazionale, anche che ci sia tutto uno stile del calcio che forse va un po' rivisto. Ma noi abbiamo un calcio di cui diciamo si muore di tifo, come abbiamo visto. Sì, però Marco, è chiaro che nei momenti di grande depressione mettiamo tutte le cose peggiori, no? In quella patumiera, cioè ci vengono in mente tutte le cose peggiori. Secondo me bisognerà anche distinguere, perché problemi di ordine pubblico sono sempre esistiti intorno a un fenomeno di massa come il calcio negli anni, ripeto, 70, 80, 90, quando poi eravamo all'apice come movimento nazionale, c'erano c'erano molti più problemi di ordine pubblico rispetto a quelli che ci sono adesso. Purtroppo rispetto a quegli anni non sono cambiate per nulla le strutture, e anche su questo, o forse principalmente su questo, dovremmo riflettere. Poi quando succede vai a casa in questa maniera per due volte consecutive, ecco che allora dici, vabbè, ma allora abbiamo problemi terribilmente profondi. Abbiamo problemi profondi quanto ce li hanno gli altri, non che gli inglesi, che pure hanno un campionato meraviglioso e un sistema che vediamo facciano meglio di noi, no? Non è che facciano meglio di noi, anzi fanno ogni volta peggio, praticamente. La Francia sta tentando di risorgere come movimento calcistico interno dopo anni in cui era semplicemente un territorio di conquista. Si andavano lì e si pigliavano tutti i migliori, tutti fuori, tutti all'estero. Insomma, quindi non certamente c'è molto pessimismo in giro e certamente c'è molta depressione calcistica e depressione sportiva in giro. Però non la farei, non sarei così pessimista io, non la farei così drammatica. Non dimentichiamo che abbiamo un Under 21 vice campione d'Europa, Spagna campione d'Europa, Italia vice campione d'Europa, non accadeva da un po' di tempo. Secondo me ci sono diversi giocatori giovani su cui varrebbe la pena puntare e quindi non sarei così depresso. Roberto Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie per lo spazio. Senta, solo un'informazione sul regolamento FIFA per ciò che riguardava la fase gironi. Circa due settimane fa, quando si parlava del presunto biscotto che si prospettava tra Spagna, Cile, Olanda, voi dicevate che nel caso in cui le tre squadre fossero arrivate a 6 punti subentrava la differenza reti, ma solo nella classifica bursa, mentre invece ho sentito in un'altra trasmissione che la differenza reti è quella globale. Sì. Ecco, mi poteva soltanto delucidare su questo, grazie all'ascolto per radio. Sì, mi sembra che Diversacco sia passato sotto i ponti, il regolamento nuovo diceva che nuovo regolamento introdotto in questi mondiali diceva che primo criterio differenza reti complessiva. Fase a gironi conclusa, adesso inizia il bello confronto diretto e noi non ci siamo, quindi mi sembra una questione abbastanza di retroguardia. Sarà interessante invece vedere la storia delle squalifiche per Neymar, ma credo sia impossibile, ma soprattutto per Robben, perché questo è un caso parecchio più spinoso. After this season my life, not as a coach, as a person, will be different. I think that as a person I try to follow every time a dream. I think that you need dream to push yourself to enjoy the day. And will be tough for me from tomorrow. Also when I don't know if I will coach one more team, but because I think that this season as a human being, as a coach, is the dream. Beh, a me i brividi sono venuti. L'altro giorno, parlando con Luca Chiabotti, dicevo che se la nazionale italiana di calcio avesse avuto un quarto del coraggio, della passione, delle palle della Montepaschi Siena, avremmo vinto il mondiale in scioltezza. Sono di parte, lo dichiaro, ma per me Marco Crespi è il personaggio sportivo dell'anno, all'interno della storia sportiva più bella dell'anno. Ciao Marco. Ciao Carlo. Come stai? Bene, bene, molto bene. Anche perché i sogni restano, Come, scusa? I sogni restano, quello che hai fatto resta, non va mica via. Infatti penso che in quel discorso ho parlato che adesso sono in difficoltà perché dovrò trovare un altro sogno, però penso che quando una persona raggiunge un sogno gli rimane addosso e soprattutto lui rimane dentro nel sogno ed è una sensazione bellissima. Sì, ascolta Marco, io non a me non piace tanto il concetto di vincitore morale, lo usiamo spesso nel rugby, poi figurati un po', ma qualche volta si dice che quelli che hanno perso con il massimo onore sono vincitori morali, ma questa, che in fondo è una banalità, si è riuscita a renderla reale, perché Siena è la miglior squadra italiana. Io penso che per tutta la storia tecnica di questa squadra, intendo per la storia tecnica non le vicissitudini fuori dal campo, ma il fatto di dover essere ripartiti a fine dicembre con una struttura completamente diversa e per come si è arrivati a giocare sia da un punto di vista tecnico e da un punto di vista di essere emotivamente tutti coinvolti, credo che sia sicuramente come allenatore orgoglioso e mi piacerebbe ogni giorno rivedere le partite della mia squadra perché penso che possa essere qualcosa da trasmettere. Non c'è dubbio, anche se ti farebbe un male cane anche alla centesima volta, anche alla centesima ripetizione. La domanda più banale è come hai fatto, considerata queste difficoltà tecniche che c'erano e altre difficoltà fuori dal campo che conosciamo bene, allora come hai fatto? Io credo che nel modo più semplice, e cioè trasmettendo e cercando di ritagliare per ognuno degli obiettivi che potessero essere tecnici per la carriera di ognuno, degli obiettivi tecnici per far sentire ognuno parte del progetto. Ho parlato sempre a loro ogni giorno di basket, di dettagli, di come un giocatore di pallacanestro possa vivere delle emozioni che una persona normale si sogna tutta la vita, e penso di aver fatto delle persone a cui piaceva sentire dire queste cose. Hai lavorato anche sui difetti di Milano nella finale, difetti di Milano che si chiamavano pressione e probabilmente presunzione, e per pochissimo non sei riuscito ad impiccarla con quei difetti. Ma penso che, al di là di parlare dei difetti di Milano, sicuramente essendo la squadra assolutamente con meno talento, più debole, con un numero di giocatori minore della rotazione, dovevamo fare qualcosa per mettere in difficoltà Milano, che fosse tecnico, che fosse mentale, e penso che essere arrivati a un tiro dallo scudetto sia, anche da un punto di vista tattico, un'impresa meravigliosa. Marco, un'ultima cosa, non posso non chiederti se hai già un'idea del prossimo sogno. Il prossimo sogno, non ho idea, il prossimo... Spiaggia di Varigotti. Spiaggia di Varigotti? Esatto. Ok, buone vacanze Marco, un abbraccio forte. Oh, grazie ciao. Tantissimo. Ciao. Ciao Marco Crespi. Tutti convocati. Telecronista colombiano al gol di James Rodriguez, superstar di questo mondiale, superstar che stiamo imparando a conoscere, perché ci sono diverse stelle che ovviamente stanno brillando, le conoscete, Robben certamente, Messi certamente, Müller certamente, però James Rodriguez, ragazzi, costato tanto al Monaco, un 45 milioni andati nelle casse dei soliti splendidi mercanti del Porto. Stagione discreta, 9 gol per lui nella squadra di Claudio Ranieri, ovviamente all'ombra di Falcao, e sarebbe magari stato all'ombra di Falcao qualora la Ramadel fosse stato della spedizione colombiana. Invece adesso stiamo scoprendo e stiamo vedendo un giocatore clamoroso. C'è un altro James, che di cognome James e di nome LeBron, più o meno conoscete, no? Che ha twittato: ecco il mio calciatore preferito, il nome lo aiuta. Ovviamente James Rodriguez. Ma c'è un'altra cosa, cari amici, prima di parlare ancora con voi, ovviamente 800240024, poi Gera arriverà anche Pardo a farci compagnia. C'è un'altra cosa riguardo alla Colombia, una dichiarazione di Zapata, anche lui lo conoscete, gioca di solito con la maglia rossonera del Milan, che sta dicendo addio proprio in questi minuti a Kakà. È praticamente ufficiale, è l'ultimo giorno in cui ciò è possibile, e c'è incontro decisivo a sede del Milan. Kakà se ne va e questo è, ve lo do per certo, ve lo do per ufficiale, insomma. Ebbene, Zapata ha detto: siamo uniti e soprattutto allegri. In Italia prima viene lo stress e poi il calcio, qui si pensa esattamente al contrario, c'è un'aria fresca. Diciamo che al Milan a nessuno veniva in mente di pensare a un balletto per il gol. Così era facile che non venisse neanche il gol. Siamo una squadra tutto giovane, no? Solo Mario, che è il più vecchio, ma anche lui adesso sta giocando come un giovane. Penso che no, siamo una bella squadra, compatta. alegre, se veden anche in campo, e siamo molto felici per tutto questo. Tu e Mario sembrate rigenerati rispetto al campionato italiano, tutt'altra area in nazionale, no? Sì, è che nazionale è un'area più di più allegria, no? Non c'è tanta tensione, diciamo, come il campionato italiano. Adesso stiamo facendo bene, penso che certi balletti quest'anno al Milan era un po' difficile proporli, no? Diciamo. Molto difficile per tutto, no? E questo era Zapata al microfono di Dario Ricci, nostro inviato. Il Mario cui faceva riferimento ovviamente non è Balotelli, ma questo lo sapete, però per la precisione, per la cronaca, Marione Yepes. Antonio da Siena, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, ciao a tutti. Ho anticipato la notizia ufficiale di un minutino. Ufficiale la risoluzione del contratto di Kakà, il brasiliano firmerà con Orlando City, dunque andrà a giocare in Brasile per qualche mese in attesa dell'inizio prossimo marzo del campionato statunitense, e quindi giocherà ad Orlando. È ufficiale. Dica. Beh, diciamo che la notizia era nell'aria. Io volevo tornare un po' al discorso di casa nostra, la scelta del CT, però questa premessa che hai fatto di stampo su tutto sudamericano, diciamo che è un po' indirettamente fotografa anche per quello che ha detto Zapata, la situazione un po' del nostro calcio, che non è certo solo quella del Milan, assolutamente. Sì. E facevo una riflessione sulla scelta del CT, mi chiedevo da poco più di 10 anni, a parte la parentesi felice del 2006 con Lippi, che comunque sappiamo tutti, ricordiamo in quale circostanze particolari, erano i mesi di Calciopoli, è maturata un po' quella stupenda cavalcata della Germania. Mi chiedo, ma dove sono finite quelle scelte della federazione, tutte che hanno caratterizzato tanti anni di nazionale, tutte legate, come si diceva, a tecnici federali, tra virgolette? Siamo andati dietro forse un po' troppo a tecnici di club, forse non è proprio nel DNA del nostro calcio. Ma dipende, può anche essere che quella fosse un'idea superata, no? Cioè quella della scuola dei tecnici federali. In queste ore si è fatto anche il nome di Antonio Cabrini, che potrebbe essere un identikit pertinente, però io non trovo niente di perverso, di scandaloso nel fatto che ci si rivolga al mercato per andare a prendere un allenatore, anche perché insomma, mi sembra che la strada sia molto diversa. Poi fino a qualche anno fa c'era chi faceva quella carriera di tecnico federale, di selezionatore federale per molti e molti e molti anni. Adesso vedete che anche all'Under 21 gli allenatori cambiano ogni biennio, dunque è un po' più difficile quel tipo di catena. Il problema è che ci vuole il grano, ci vogliono i soldi, e la Federazione Italiana di Quattrini non ne ha, quantomeno non ne ha come quanti ne hanno gli altri. Vedete anche l'Olanda, insomma, passa da Van Gaal, che adesso sapete bene dove andrà ad allenare e che è un allenatore di club, passerà a Diddink, che è pure un santone degli allenatori di club o di nazionale. Quindi credo che un po' ovunque la strada sia quella. Kamel Siracusa, buongiorno. Sì, buongiorno carissimo. Mi dica. Allora, io vorrei intervenire per il fattore dell'allenatore della nazionale. Chi mettiamo? Allora, noi abbiamo parlato poco fa, ho ascoltato la vostra intervista, su Mourinho. Mourinho per noi non è un allenatore del calcio, quella signorità. Quella è nella sua vita, che cosa ha vinto? Che cosa ha procurato? Procurato danni in qualsiasi società che è andato, sia al Real Madrid, sia all'Inter. Adesso procurerà anche dei danni a Chelsea. Più la società che ha certi livelli di giocatori, lui ha cercato di comprare altri giocatori di livello internazionale, l'ha comprati sia dell'Atletico Madrid sia di altre squadre. Lui, se non ha un budget da 900 milioni di euro, da 1 miliardo di euro, lui non vincerà mai niente. E poi noi allenatori, sì, con ma Mourinho, mi perdoni, è ovvio che io ho un'idea totalmente diversa. Non è che Ancelotti o Guardiola o Van Gaal, che andrà allo United, possano sperare di vincere o vogliono provare a vincere con un budget inferiore. Cioè, tutti gli allenatori dei grandi club chiedono giocatori importanti. È chiaro che è chiaro che pochi se li possono permettere, è chiaro che c'è un, come abbiamo sempre detto, un'oligarchia di grandi club che fanno grosso modo sparire tutte le altre, è chiaro che ogni tanto spunta la Primula Atletico Madrid o la Primula Borussia Dortmund o la Primula Porto, come è successo con José Mourinho, che mi pare che non abbia proprio sempre distrutto tutto, anzi. Ci fermiamo per Angelo da Modena, può stare con me per favore? Sì. Benissimo, la ringrazio. Abbiamo Bet Corner, GR, poi Angelo da Modena, poi Pardo e poi ancora un'ora per stare insieme. Quote e pronostici. Continua il brivido degli ottavi di finale al mondiale brasiliano, gare secche che stanno sin qui regalando match tirati, e dal risultato mai scontato alle 18 allo Stadio Nazionale di Brasilia c'è la Francia di Deschamps opposta alla Nigeria. Vediamo dunque le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria dei transalpini, è quotata 1,47, l'X è a 4,25, il 2 invece, con il successo degli africani, è quotato 7. È possibile anche indovinare il nome del primo marcatore. Per la Nigeria spiccano i nomi di Odewingi e di Emenike, quotati 10, Benzema per la Francia è quotato 5, Giroud 7, Pogba 15. Alle 22 poi al Beira-Rio di Porto Alegre c'è il match tra Germania e Algeria. L'1, la vittoria dei tedeschi, è quotata 1,27, l'X è a 5,75, il 2 invece è quotato 10. Per il primo marcatore il nome di Klose è quotato 7, Götze è quotato 6, Müller è quotato 4,5, tra gli africani invece Sulimani è quotato 10, Feghouli è quotato 15. Questa era l'ultima delle quote di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Avremo un allevamento di cani dalmati, un allevamento di cani dalmati. Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà. Mamma, in ogni mamma. Momento nell'allevamento felice ciascun sarà. Porta palla Emanuelson, fa lui con il sinistro, poi la finta dentro per Kakà. Kakà, posizione regolare, Kakà! Eccolo qui, il gol numero 100 della sua carriera in rossonero. 1-0 Milan, Kakà! Arriva sotto porta per Kakà, che non sbaglia e firma la sua doppietta in un momento molto difficile per il Milan. Ancora Kakà ed è 2-0. Eric Cardino se ne va, è ufficiale, ha rescisso il contratto con il Milan, verrà stipendiato da Orlando, farà un passaggio a San Paolo in Brasile e poi da marzo Stati Uniti per lui. Angelo, sono qua. Eccolo, dica. Allora, volevo fare una riflessione, ma diciamo che un po' è già stata bruciata la mia domanda. Comunque, su Prandelli, sì. Diciamo che quello che ha fatto prima di questo mondiale sostanzialmente era abbastanza condivisibile, era un po' d'aria nuova, ragazzi che erano sulle sue caratteristiche abbastanza giovani. E qui mi rilascio alla riflessione che ormai avete fatto anche voi. Noi sono anni, ma anni, decenni che a livello di Under 21 abbiamo sempre avuto ottimi ragazzi arrivare nelle finali, diciamo, o primo, secondo, comunque a parte un anno siamo sempre stati tra le prime. Sì, gli no, allenatori. C'è stato qualche edizione in cui le cose sono andate benissimo, sono sì, tornate ad andare bene nell'ultima stagione. Esatto, allora la mia riflessione era, rispetto a quello che aveva detto anche l'altro interlocutore, era ma continuare con gli allenatori federali, probabilmente se non sarà, diciamo, il mercato, ma potrebbe essere la conoscenza di questi ragazzi. E questa era la prima. La seconda invece, che volevo sentire il suo parere, io ieri ho sentito su Sky Caressa che ha fatto un monologo dove sono abbastanza concorde con lui e parlava di tutto quello che secondo lui poteva essere fatto o non fatto all'interno della federazione, però sì. Rispecchiandomi su quello che ho visto e ne approfitto perché la vostra trasmissione è abbastanza eclettica su molti sport, io l'ho raffigurato sì per il calcio, per il basket, per l'atletica, per l'hockey, cioè per tanti sport dove hanno le stesse problematiche. Se il calcio sì. Dove girano i soldi che in nessun'altra attività sportiva possono usare, mi preoccupa questa situazione. Ma certo, è preoccupante perché non parliamo di stadi, parliamo di grandi impianti, quando in Italia lo sappiamo bene E queste occasioni sono sempre buone per ricordare come e quanto andare a fare sport nel nostro paese sia tremendamente difficile dal punto di vista degli impianti. Quindi è un problema che è lì e fidatevi, resterà lì. 800 24 00 24, è arrivato il mio amico Pierluigi Pardo, cui faccio sentire subito una cosa. Gezzo Martinez, è arrivata la copertura, ancora Jaime! Attenzione, Benzema cala il poker, 4-0 per la Francia. Ancora Robben, scavalca anche Ochoa, Untler fa la torre, arriva Sneijder, 1-1, il pareggio dell'Olanda. Intervento di Niom, pallone ancora buono, Marcelo ha servito Neymar, Neymar è pronto a inventare qualcosa, Neymar! E se l'inventa qualcosa, il 2-1 per il Brasile! Ancora la sfida con Messi. Messi! Meraviglioso Messi, come sempre! Ah, Pierluigi, fin troppo facile, denominatore comune. Sì, direi che... LDS. Molto facile d'agi, molto facile d'agi. Toglimi una curiosità, ma perché James Rodriguez? James. Tu come lo chiami? James. Lo chiami così o lo chiami James? Ma io lo chiamo James, però James. Sapevo questa storia del James. Fra l'altro c'è anche Michael Jordan. Michael Jackson, no, è pronunciata diciamo alla spagnola, quindi sì, no, perché se c'è un bambino italiano, lo chiami sfigatamente James, cosa diventa? Gelsomino, Jasmino? James, infatti secondo me è delle due l'una, o scegli dei sani nomi del tuo popolo, ma se scegli un nome straniero a quel punto lo chiami, rimane quello, c'è il nome straniero. Va bene, ho risolta la pratica lessicale, risolta la pratica lessicale, resta un gran giocatore che stiamo scoprendo. Forse è l'unica vera grande stella che questo mondiale sta rivelando, perché anche i Sassi conoscono gli altri 10 di cui abbiamo insomma, ricordato qualche gesta. Sì, è sicuramente la stella emergente del mondiale. No, mi piace molto, ma cioè, è un giocatore abbastanza conosciuto. Adesso sinceramente non è che voglio fare il fenomeno, ma insomma è uno che si conosceva. Uno che ha anche costato 45 milioni di zucchine. Capito, per cui poi perché dal Porto è una bottega molto cara, il Monaco è un compratore molto ricco, quindi questo prezzo in qualche modo era frutto di queste due cose, però stiamo parlando comunque di un giocatore con una dimensione molto importante, ragazzo del luglio del 91, quindi 23 anni dalla vigilia, ricompilata del giorno della vigilia della finale mondiale, se non sbaglio il 12 luglio, quindi insomma stiamo parlando di un giocatore, però ottimo giocatore che forse sta diventando grande. Siccome poi il mondiale è un'altra cosa, e poi alla fine è chiaro che essere in questo momento il capocannoniere, aver fatto queste prestazioni con questo livello di pressione, con questi occhi del mondo addosso, fa sì che la sua quotazione cresca ulteriormente, insomma, anche sui giornali brasiliani. Aspetta che ce l'ho qui, stamattina era, oltre ad esserci proprio un pezzo, un ritratto, erano per 150 milioni di reais, cioè 50 milioni di euro, ma secondo me a questo punto neanche bastano, perché visto l'investimento che è stato fatto, insomma, si parte dall'alto, però brividi bollenti dei brasiliani, immagini in queste ore, che visto il Brasile dell'altro giorno, io avrei una FIFA blu, non gialla, blu. Certo. 800 24 00 24, il numero verde, ci sono Michele, provincia di Barenzo, la provincia di Lucca. Senti Pier, ma che l'Olanda, che impressione ti ha fatto? Ha avuto una discreta botta di culo nel finale, c'è questa storia di Robben che ha fatto outing, C'è Van Gaal che ha detto: oh, abbiamo visto il time out, ma mica solo abbiamo preso da bere, preso il ghiaccio. Io ho cambiato la squadra nel time out del secondo tempo, proprio come gli allenatori del basket. Sì, infatti adesso io non mi ricordo dove, perché qua fra radio e televisione ormai sono completamente bollito, però ieri a proposito di queste novità tecnologiche dicevo, e quindi a questo punto lo ribadisco, che secondo me il time out è una soluzione chiaramente che deve essere adottata se c'è un pericolo di incolumità, se ci sono delle condizioni estreme, sì. Ma in realtà secondo me il time out è un'alterazione dello spirito del calcio. Anche secondo me. Sono d'accordo. Tra l'altro appunto questi time out che vengono concessi per motivi diciamo ambientali e di calura possono finire per dare una mano a una squadra piuttosto che un'altra. L'esempio di ieri è assolutamente chiaro, così come penso che il Messico, come qualsiasi squadra che subisce il gol dell'1-1 all'88esimo, magari il time out lo vorrebbe per spezzare il ritmo all'avversario, per cui o vengono diciamo istituzionalizzati, viene data agli allenatori la possibilità, come nel basket ad esempio, chiamarne uno, di sì. Fermare il gioco, o se no sono un ibrido che secondo me rischia di creare qualche ingiustizia. Insomma, detto questo, abbiamo problemi più grandi ovviamente nel mondo, e quindi vanno bene i time out. Qui sono dovuti alle condizioni estreme. Fortaleza è la città più a nord, quindi più vicina all'equatore di tutto il Brasile, e si giocava alle ore 13 locali. Però secondo me la sortura è quella, cioè bisognerebbe non giocare alle 13 locali a 32 gradi. Sì, chiaro. E pensiamo a quello che potrebbe succedere in Qatar, ovviamente. Senti, in ogni caso Olanda buona impressione. Si parla molto qui, lo saprai, di un'Olanda strana per le loro abitudini, di un'Olanda catenacciara, di un'Olanda brava a contenere e poi a scatenare quei tre lì davanti. Condividi questa analisi o no? Ieri ero abbastanza convinto che l'Olanda sarebbe uscita, o comunque che avrebbe rischiato, faticato molto, sì. E fra l'altro in questo simpatico giochino che faccio con Cruciani e tutti gli altri. Come sta andando a proposito? No, sono scivolato tipo al decimo posto, no, siamo sempre 40, quindi è sempre una buona classifica. Beh, ma Cruciani come è messo? È sempre tipo bassissima classifica, però... No, ma hanno fatto adesso tutto, hanno aumentato i bonus per i risultati esatti, cioè il tentativo disperato, capito, di chi era dietro di recuperare. Addirittura quindi, il cambio dei regolamenti in corsa. No, vabbè, sai, non è che c'è uno storico, insomma, per rendere più affascinante la competizione della seconda fase ci sta, insomma, è come in quei quiz dove alla fine la risposta vale doppio, che ne so, però per qui... però insomma una sfiga mostruosa, perché avevo l'1-1 di Olanda-Messico, poi avevo la vittoria del Costa Rica di un gol, e chiaramente arrivava Papastatopoulos. ma io posso crollare in classifica, tutto rispetto per il bravo Socrate di Papastatopoulos, bravissima persona, un giocatore, e quindi no, ti dicevo, l'Olanda avevo la sensazione, una netta percezione che potesse faticare tanto. Ed è stato così, però insomma sai, delle volte attraverso le difficoltà che si costruiscono le vittorie. La Francia che vince il mondiale nel 98 arriva al golden goal di Blanc, no? Chiaro, il Paraguay, no. Vince i rigori contro l'Italia, cioè, ma devi per forza passare da qualche buco della serratura per vincere un mondiale, se mai esatto, visto che uno che lo vince dalla prima all'ultima partita senza mezzo passo falso, senza mezza paturnia. È anche per questo che il mondiale è meraviglioso, perché in un istante tac ti cambia la vita dall'ombra al sole in maniera totalmente repentina, e anche il trionfo del ma se fosse andata così, però non è così. Allora, prima degli ascoltatori ti faccio sentire, io lo chiamo James, col tuo permesso, James Rodriguez, a 14 anni, sentitelo. Sempre mi gustó mucho Zidane. Siempre creo que lo siempre lo quise imitar. Dicen que el fútbol pues español que se juega, no sé, con más toque, con más espacio, pero bueno, me encantaría jugar en Italia. Siempre sigo el fútbol italiano. Conozco y veo mucho fútbol italiano también. Pues el Milan, no sé, Inter, Juve, sería un sueño para mí ir a jugar a la Juve. Primero es un club grande y es un club de élite. El Piero creo que es un referente. Y siempre hizo goles, entonces creo que ese jugador que yo siempre seguí ahí en la Juve. Allora dice: vorrei andare alla Juventus, mi piacciono Zidane e Del Piero. Pensate che nel 2010 Secco l'aveva preso per la Juventus a 4 milioni e 9 dal Banfield, squadra argentina in cui James Rodriguez giocava. Michele, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo fare una proposta per il nuovo CT internazionale. Sì? Io uno che costa poco, è bravo, lancia i giovani ed è il migliore dopo Conte e Garcia in Italia, ed è Giampiero Ventura. Che ne dice? Dico che ognuno ha la sua candidatura, come proprio come alle politiche, non ho un'opinione in proposito, mi attengo ai nomi che leggo. Certamente Ventura è un eccellente allenatore. A dire la verità, sì. A Ventura non ci avevo ancora pensato, non lo so, si può pensare a tutto. No, ma Ventura, che è bravissimo, mi sembra più un allenatore che un selezionatore. E alla fine serve un allenatore di buona esperienza, di buona esperienza, anche se a livello internazionale quelli che hanno vinto sono Gabriello Lippi e Ancelotti, poi, e quindi in questo momento non ci sono, non sono disponibili. E Ventura è bravissimo, secondo me è stato bravissimo a costruire un gioco offensivo e a valorizzare i giocatori che vede dalla mattina alla sera. Ce ne sono tanti allenatori bravi in Italia, Pierluigi, ce ne sono un sacco di allenatori bravi in Italia, quindi ogni candidatura può essere interessante, qualcosa su cui riflettere. Poi si tratta di prendere un allenatore che va a fare un mestiere un po' diverso e quindi deve averne le caratteristiche. Secondo me in questo momento servono più caratteristiche emotive, servono più caratteristiche di carisma e di capacità di con le buone o con le cattive di mettere tutti d'accordo. Poi c'è anche ancora la corrente seguiamo di nuovo la catena dei tecnici federali, però mi pare che quella catena non esista più, perché anche nell'Under 21 vanno e vengono gli allenatori, quindi non mi sembra sia una trafila che ti porta Under 21 nazionale maggiore. Il calcio è cambiato, cioè la quantità di pressione che tu hai, la percezione anche mediatica che i giocatori hanno degli allenatori è completamente cambiata. I giocatori vogliono che l'allenatore sia un figo, vogliono che l'allenatore sia uno col carisma, che conoscono, che gli dà, insomma, non sono semplicissimi, sì. Per cui uno che viene fuori da un percorso federale, diciamo così, di basso profilo, non perché non sia tecnicamente valido, ma perché è chiaro che l'adrenalina e l'esperienza che ti dà allenare un grande club è un biglietto da visita enorme. Diverso, ma certo. Con tutto rispetto per chi allena l'Under 17 o l'Under 19 in Italia, è un'altra cosa. E i grandi calciatori, secondo me, vogliono essere allenati da questo tipo. Serve, e l'esperienza drammatica di questo mondiale lo dimostra, serve una capacità di gestione dei grandi nomi, dei grandi giocatori di un certo tipo, perché quelli sono abituati a fare in un certo modo. Ieri sera ero a cena fra gli altri con Zvone Boban, che è una delle cose, è sempre interessantissimo sentirlo, ma una delle cose interessanti a proposito per esempio di Costa Rica è che secondo lui invece la Croazia non aveva avuto è questa sorta di follia, cioè questa idea che poi alla fine, soprattutto in una competizione breve come il mondiale, ci deve essere un elemento, io sono perfettamente d'accordo, ci deve essere un elemento irrazionale, quasi di follia, di ortodossia, delirio collettivo, di delirio collettivo all'interno della squadra, no? Perché poi noi lo diciamo sempre, non è che i giocatori perdono apposta, non è che non credono nella possibilità di vincere, è solo che c'è chi è più bravo innanzitutto, ma soprattutto c'è chi ci crede un po' di più, certo, la gradazione, la sfumatura fra chi in una scala 1 a 10 dà 9 e chi dà 10 è delle volte decisiva in un gioco come questo. Per cui serve, sono d'accordo con te, serve un allenatore capace di riprendere i giocatori per il loro di stabilire con loro un rapporto di un certo tipo, e sicuramente poi il calcio italiano si deve svegliare, ma questo non lo può fare Mancini o Allegri di turno, nel senso che la qualità che abbiamo è quella, e poi alla fine il selezionatore è uno che si trova gli uomini che ha a disposizione e deve cercare di trovare una No, anche perché Harry Potter costa un casino, quindi l'unico sarebbe l'unico in grado di risolvere da solo tutto questo casino Harry Potter, ma costa un sacco di soldi. Enzo, buongiorno, provincia di Lucca, 800240024, chiamatevi a quello che volete. Vai, buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno a te e a Pierluigi, Carlo. Dimmi. Io volevo fare un intervento sintetico sull'Olimpia Milano. Sì. Io sono uno dei 12.000 che era a Milano a vedere la finalissima. Uh-huh. E sono rimasto molto contento della nostra vittoria, ovviamente, che aspettavo da 18 anni. Contento soprattutto per l'unico vero fuoriclasse che ha Milano, che è un signore di 80 anni, alto la metà dei presunti campioni che noi abbiamo in squadra, il signor Giorgio Armani. Mm. Noi dobbiamo tutto a lui, perché per il resto non posso non riconoscere che la mia squadra ha vinto solo ed esclusivamente per una sommatoria delle qualità dei singoli che era nettamente superiore, certamente, a quella dei nostri concorrenti. Certamente è andata così. A livello di gioco, il signor Banchi, che io ringrazio per la vittoria, ma che, se non è completamente impazzito, lascia la barca quest'anno e se ne va da un'altra parte, perché ha quasi tutto lo spogliatoio contro, e infatti le ultime due o tre partite lo hanno dimostrato. Questo non lo so se lo spogliatoio sia contro o no, ma anche è quello che ha riportato però lo scudetto a Milano dopo 18 anni, e uno straccio di merito, secondo me, bisogna darglielo, anzi un po' di più di uno straccio di merito, e un bel po' di merito va dato a Luca Banchi, perché è vero che l'Armani si è sciolta dopo la partita con il Maccabi a livello di gioco, ma per tre mesi è stata, e torno a ripeterlo, in quel momento la miglior squadra d'Europa. Quindi qualche merito a Banchi diamoglielo, va. Enzo. Giuseppe da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi Dica. Sentite? Sì. Allora, volevo dire che minchia quanto siete forti, comunque. Minchia. Siete proprio i numeri uno. Davvero. Poi un'altra cosa, no, non è praticabile. Scusa, questo minchia è per vincere. Per vincere il premio, No, è insensibile a queste cose. No, non è per questo, perché veramente siete i numeri uno. Volevo intervenire in merito a Conte, che lei lo voleva vedere sulla panchina della nazionale come sì, part-time, voleva almeno tre part-time. Io? Della nazionale. Oh, qualcuno di voi aveva lanciato l'idea dell'allenatore part-time. No, se ero io era un momento difficile della mia vita, perché non me lo ricordo. Che volevate fare un po', giocare un po', allena la Juventus, un po' allena la nazionale. Ho sentito anche queste cose in televisione o in radio, adesso non mi ricordo. È stato pardo, eh. Io vabbè, comunque volevo dire. No. Vabbè, comunque volevo dire che è una cosa impraticabile. Dai. Aspetta, è impraticabile, allora. Perché se vedete un allenatore come Conte che va allenare la nazionale, poi il giorno dopo magari c'è una partita Juventus-Inter, sì, fa giocare i giocatori della Juve, dell'Inter, figuriamoci in Italia, viene fuori un pieno che ce lo ricordiamo per tutta la vita. Comunque non ero io, non eri neanche tu, no, Pierluigi, ad aver lanciato questa idea. Non ero io, ne hai parlato. Secondo me in assoluto, e non riguarda solo Conte, la coabitazione non è una cosa impossibile, ma in Italia, che è un paese dove la cultura del calcio, soprattutto calcio di club, e soprattutto l'allenatore di una squadra così polarizzante come la Juve, potrebbe essere l'Inter o il Milan allo stesso modo, creerebbe dei casini mostruosi. Tu pensa alle convocazioni, pensa se non convoca uno della Juve, che magari la domenica c'è Juve-Napoli, per lo far riposare, oppure se invece se lo convoca è perché c'ha i suoi cocchi, capito? Cioè diventa non mi ci fa nemmeno questo, pensare. All'estero l'hanno fatto, in Olanda l'hanno fatto, per dirti, non è. Ma all'estero hanno un, insomma, così un feeling diverso. Cioè, potrebbe farlo. Metti Ancelotti, meno carboidrato. Ancelotti adesso che allena Real Madrid, nazionale italiana part-time, ovviamente è una follia, però a quel punto sarebbe meno coinvolto in logiche italiane, quindi magari potrebbe funzionare. Ma secondo me nel calcio italiano, in altri sport è stato fatto pure, anche in Italia, però qui sarebbe davvero un casino. Tutti convocati, sì. 800 24 00 24, tutti convocati, altro che, tutti i giorni dalle 2 alle 4 del pomeriggio. Luca da Parma, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, un saluto anche a Luigi Pardo. Io volevo fare un paio di considerazioni e confrontarmi con lei su questo aspetto. Considerato che concordo con quanto lei ha detto i giorni scorsi relativamente al comportamento dei cosiddetti senatori nei confronti dei vecchi, che secondo me è stato un comportamento assolutamente riprovevole, in quanto non bisogna tirarsi fuori dopo, ma avere, diciamo, la capacità di gestire il gruppo dall'interno. Io ho fatto sport, ho giocato a calcio e i vecchi all'interno dello spogliatoio si facevano sentire, non quando, diciamo, i buoi sono già scappati. Certo. In questa ottica mi permettevo di suggerire una cosa. Innanzitutto, io vedrei molto bene un commissario tecnico straniero fuori da tutti i vari giochi delle grandi società italiane, ma a priori la scelta dovrebbe ricadere su un candidato che condivida una politica federale, che, lo dico da tifoso, dovrebbe partire dal presupposto che dovremmo fare una pianificazione su 4 anni, ragionando che i prossimi europei non dovremmo giocarli per vincere, ma dovremmo giocarli con i giovani dell'Under che lei ha segnalato prima, e fare una sperimentazione che ci porti fra 4 anni ad avere una squadra realmente competitiva, ma su delle basi di prospettiva. Sì. Io mi domando, il Caldirola, vari giocatori che giocano in squadra estera e non sono neanche considerati nella nostra nazionale. Sì, sì, sì, no, ma ripeto, questa potrebbe essere la linea più logica e razionale. Poi sul piano programmatico quadriennale, con l'idea di pigliare l'Under 21 in toto, farla giocare dall'altra parte, eccetera, c'è una strategia piuttosto difficile. Però è interessante notare Pierluigi Pardo, ed è arrivato anche Alberto Polverosi, firma prestigiosa del Corriere dello Sport. Ciao Polvere. Ciao Alberto. Ecco, allora, ad entrambi, cioè, visto che è il momento delle candidature, no? Ognuno ha la sua sul CT della Nazionale. Abbiamo sentito prima nel giornale radio, l'11 di agosto ci sarà il presidente federale, che sarà? Chi sarà il presidente federale, Alberto? Ma credo Tavecchio. Ok, e a quel punto il presidente federale, almeno i voti sono quelli, poi siamo in pieno clima elettorale per il presidente federale, così come per il commissario tecnico. C'è questa corrente che di pensiero, che è quella che porta a dire: ma perché, visto che siamo a questo punto in fondo al buco, perché non provare una soluzione davvero mai vista dalle nostre parti, cioè un CT straniero? Perché no? Lo chiedi a me? Io sono... Sì. Lo chiedi a me? Ti a tutti, dico, e, no, due, io a tutti e due lo chiedo. Parti tu, Alberto, allora, poi sentiamo Pierluigi. No, io non ho preclusioni sui tecnici stranieri, ne abbiamo svezzati tanti, Lidl, Ericsson, in passato, per cui non ho queste preclusioni, solo che mi sembra che se c'è una cosa che non ci manca in Italia sono gli allenatori. Proprio abbiamo un gruppo molto interessante, interessante, legato purtroppo a club italiani. Quelli che non si legano a club italiani, come Mancini, come Ancelotti, come lo stesso Ranieri, hanno ottengono risultati interessanti, in qualche caso importanti, all'estero. Per cui non credo che sia la materia che manca, il materiale che manca all'Italia, quello da mettere in panchina. Mi sembra invece manchi chi deve scegliere, cioè manca la classe dirigente in pieno, e mancano di conseguenza i giocatori di livello. Sì, Pardo, che ne pensi? A me l'idea piace, ne parlavamo anche ieri, però il candidato ideale, che secondo me era Hiddink, firmato con l'Olanda per il futuro, quindi questa è un'ipotesi che va scartata. A me sembra che in questo momento un po' di contaminazione al calcio italiano faccia bene a tutti i livelli. Ma sai, è vero che abbiamo dei grandi allenatori, esatto, generale, ma è una questione di mentalità probabilmente, Pier. È chiaro che i nostri sono bravi, però un approccio differente alle grandi manifestazioni forse servirebbe, questo che stai dicendo? Sì, è un approccio in generale, anche non alle grandi manifestazioni, cioè secondo me noi, ma questo riguarda non tanto la nazionale quanto il calcio italiano in generale, il nostro approccio, ne abbiamo parlato purtroppo mille volte, perché i fallimenti del calcio italiano sono stati parecchi, però insomma noi siamo troppo, secondo me, ancora legati a un passato che è stato glorioso. A me faceva impressione sentire prima James, no? Che come in quell'intervista di 14 anni, quindi 9 anni fa, parliamo del 2005, e parlava dei club italiani, Milan, Juve e Inter, ovviamente i più famosi, come il punto d'arrivo della carriera. E io non so se 9 anni dopo, sinceramente, direbbe le stesse cose. Questa è la realtà, insomma. Perché Zidane giocava nella Juventus, oggi Zidane non giocherebbe mai nella Juventus, certo. Nel 2005 il Milan arrivò in finale contro il Liverpool, aveva vinto la Champions 2 anni prima, la rivincerà 2 anni dopo sempre contro gli inglesi. Venivamo appunto dal famoso 2003 con 3 italiane su 4 in semifinale di Champions League. Mm-hmm. Era un calcio ancora che dominava, che ancora era un modello, anche se in quel momento proprio si stavano evidentemente cominciando a evidenziare dei problemi, perché poi dei problemi, la crescita di altri paesi rispetto al nostro. Quindi insomma, la situazione è questa. A me sarebbe piaciuto molto un allenatore straniero. Poi non deve essere che deve essere straniero, deve essere bravo prima di tutto. No, deve essere bravo in assoluto. C'è anche un'altra questione, stiamo ragionando così in astratto, anche perché gli allenatori stranieri bravi guadagnano un mucchio di soldi, cosa che la Federcalcio non ha. Invece c'è il Corriere dello Sport, mi pare Alberto Polverosi abbia preso abbia fatto la sua scelta sulle varie nomination, no? Quella di Roberto Mancini, che pure scrivete oggi sarebbe disposto a una severa dieta dimagrante al capitolo compensi. Sì, però volevo dire prima una cosa rispetto a quello che diceva Pardo prima. Sì. Cioè, noi facciamo un mestiere che viviamo veramente nemmeno sull'oggi, viviamo sull'ora, sul momento, sulla cosa. Però quando ci raffreddiamo un po' bisogna pensare da dove veniamo e cosa abbiamo fatto. Io, il Mondiale dell'Italia è da buttare totalmente, ma noi abbiamo fatto 3 anni e mezzo al top come nazionale, e quando dico al top intendo proprio dire il top, fra le prime del mondo, e ci siamo arrivati attraverso un allenatore italiano che ha puntato sul gioco non avendo a disposizione i giocatori. Mm-hmm. Tu guarda il Mondiale adesso. Allora, il Mondiale adesso ci sono in fondo Argentina, che ha ritrovato Messi anche a livello dei nazionali, il Brasile, che è stato tirato fuori dai problemi da Neymar quando c'aveva problemi. Sì. L'Olanda che ha Robben. Mm-hmm. Ci sono delle nazionali che hanno dei giocatori top. Noi abbiamo uno solo grande giocatore che ha 35 anni e che è Pirlo. Voglio dire che non ci possiamo dimenticare gli ultimi tre anni e mezzo, perché faremo un errore proprio quando dovremo andare a ricostruire qualcosa, se c'è questa possibilità. E ecco perché dico che gli allenatori italiani, e oggi noi abbiamo bollato, ma giustamente è stato il primo a dirlo dal grande signore, abbiamo bollato, gli abbiamo detto che ha fallito a Prandelli, è così, ha fallito, ma non ha fallito i 4 anni, ha fallito un mondiale che dura un mese, e dove tu sai bene occorrono tante di quelle cose, perché magari oggi siamo anche, certo, ai quarti se non ci buttano fuori i marchisi. Sì, e per cui sì, bisognerebbe sempre raffreddarsi, no, e chiaro, ragionare. È il momento della grande depressione, no, in cui avresti voglia di buttare via tutto. Ma siccome a noi spetta anche il ruolo di stare un po', come dire, di analizzare a mente serena, il giorno dopo lo capisco, una settimana dopo no. Cioè, io mi immagino che il nuovo presidente federale faccia una scelta mirata sempre a un tecnico che dia un gioco alla squadra. Sì, guarda, non credo neanche che questo gruppo, sono d'accordo con te sul fatto che non credo questo gruppo sia totalmente da buttare, non credo che siamo i peggiori del mondo, che siamo i più sfigati, più brutti, più piccoli. Abbiamo dei giocatori di buona qualità. Ci manca la superstar. Ce ne mancano 2 o 3. Abbiamo vinto il Mondiale 2006. Dove avevamo Buffon che aveva 8 anni di meno, dove avevamo Cannavaro, dove avevamo come attaccanti stava in panchina Inzaghi. Cioè, se oggi Inzaghi ha quell'età, Inzaghi prende Balotelli, Cassano, Insigne, se li mette nel taschino e gioca titolare fisso lui. Certamente. In questo momento siamo tutti abbagliati dalla Colombia, la linea difensiva della Colombia: Zuniga, Zapata, Yepes e Armero. Appunto, dalle nostre parti non è che abbiano. Però se tu avessi avuto Balotelli, vero Balotelli è questo, per me lo dico da ormai da anni, per cui ma mi rendo conto che giustamente non sono considerato, per me Balotelli è questo, un po' meglio, un po' peggio, ma non è un campione come come tanti vogliono, hanno fatto passare, allenatori compreso, commissario tecnico compreso in questo caso. Però loro hanno Rodriguez, e se uno fa un gol come quello che ha fatto lui, e non è l'unico, cioè tu capisci, cioè, e capisci che ti cambia un po' la vita, appunto, lo capisco appunto, perfettamente, caro Alberto. Comunque, per rispondere rapidamente alla tua domanda sul Mancini, ascolta, possiamo farlo dopo il traffico, che ho tempi strettissimi. Tutti convocati. Allora, stavi dicendo, Alberto Polveroso, per rispondere alla tua domanda, sì, brevemente. E la linea del giornale è quella, credo che Mancini sia in corsa insieme a un altro maestro come Guidolin, che ha qualche anno in più, c'ha un po' più di esperienza a livello nazionale, però sicuramente gli manca l'esperienza all'estero che si è fatto Mancini, andando a vincere la Manchester City e poi andando, sì, al Galatasaray. E mi sembra comunque in tutti e tre i casi, quelli se sono quelli, perché poi magari troviamo qualche bella sorpresa, mi sembra che comunque possiamo cadere in piedi, come parlo di Mancini, Allegri e Guidolini, perché insomma sono allenatori, due casi hanno vinto, Allegri l'ultimo aveva vinto uno scudetto in Italia. In due casi hanno già vinto, nel caso Guidolin non ha vinto, ma bene, anche se mi tengo le mie perplessità su Guidolin, ma per il tipo di lavoro che ha sempre sì, fatto, certo, lui ha bisogno, però credo che da un punto di vista del gioco, insomma, dell'impostazione del gioco, poi bisogna vedere i risultati ovviamente, e Guidolin possa proseguire, migliorare, sì, magari a migliorare, speriamo, rispetto all'ultimo mese, se no buonanotte, migliorare la linea di Prandelli. Sì, sì. Grazie Alberto, ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie, ciao, a voi. Ciao Alberto Polverosi, ciao. Corriere dello Sport. Ciao. Pierluigi? Sì? Dunque, chi votiamo? Votiamo James Rodriguez, va. Votiamo. Ah, la pensavo come no, no, come CT, tecnico, ovviamente, come CT. Votiamo uno fra Mancini e Allegri, dai. Sì, lo faccio anch'io. Io voto Mancini, sono d'accordo con la linea del Corriere dello Sport. Senti, noto che Cruciani ha una pessima stampa, perché è 28esimo in classifica, non è penultimo, terzultimo. Forse grazie a queste assurde... Ha una stampa contraria. Quelle dietro di recuperare. Forse ha recuperato qualche posizione, guarda, scusami, era non c'è nessuna cattiveria. Comunque c'è al 28esimo posto, se è qualcosa che vogliamo celebrare, non so. No, però, per onor di cronaca, faccio notare che Cruciani ha una pessima stampa. Dopo 45 partite è uscito finalmente dalla zona di retrocessione, questa è un po' la... quindi va sottolineato, no? Va sottolineato questo. Poi c'è... Su Marca, te ne do un po' così, su Marca scrivono che il solito James Rodriguez potrebbe andare a Real Madrid nel caso in cui andasse via Di Maria, mi sembra. Poi c'è Kroos, no? Kroos. C'è Bravo in arrivo, il portiere al Barcellona, uh-huh. Insomma, poi, il mercato si muove, eh. Poi ti segnalo che vabbè, continente africano oggi in campo, quel che resta, mentre sì, Ghana e Camerun si contendono il titolo di peggior figura comportamentale per quello, sì, che è successo. Noi medaglia di bronzo, eh? Medaglia di bronzo. No, secondo me, no, sì, no, medaglia, no, di bronzo, no, partita, bronzo, medaglia bronzo, di bronzo, sì, cioè, sì, due, sì, ma sì, loro due staccate anni luce, staccate anni luce, mentre saprai che per questione di soldi e di porcherie di bassezze del genere, mentre sai quelli della Grecia che cosa hanno detto? Sai? Loro, no, però vorrei cosa hanno detto? Non lo so, ti sto interrogando. Hanno detto: noi i soldi non li vogliamo, non vogliamo nessun premio, però se quei soldi che dovrete dare a noi per quanto abbiamo fatto fin qui, cioè questa splendida figura che li ha portati dove non erano mai arrivati, usateli per un centro federale, va, che non sappiamo dove allenarci, dove fare allenamento. Questa mi sembra una bella cosa, una bella idea. Ottimo. Davide Pisa, buongiorno. Carlo, grazie per la convocazione. Voto in pieno, purtroppo non sono molto originale, ma voto in pieno quello che l'ospite del Corriere dello Sport ha appena detto. Il problema della nazionale, su tutto, secondo me, al di là del fatto che Prandelli è entrato in totale confusione nell'ultimo mese, è che non c'è carisma, non c'è stato un giocatore che ti risolve la partita. Ci aspettavamo questo a Balotelli, Balotelli questo evidentemente ha dimostrato nei fatti di non esserlo. E noi non ci abbiamo Neymar, non ci abbiamo Messi, non ci abbiamo... Certo, certo, questo è vero. Poi purtroppo una stavo dicendo appunto una nazionale, quella del 2006, teneva in panchina a farsi il sedere a strisce Del Piero e Inzaghi, voglio dire. Di cosa stiamo parlando? Cioè, entra nel pieno in semifinale con la Germania e segna il 2-0 definitivo. Insomma, Sì, però sono anche passati 2 anni e la squadra non è poi così diversa da quella che 2 anni fa ci ha fatto diventare matti all'europeo. No? Pierluigi. No, però i senatori sono senatori 2 anni più vecchi. Sono di 2 anni più vecchi e poi soprattutto sono d'accordo con quello che diceva. Con quello diceva Polverosi ero d'accordo, nel senso Prandelli ha fatto 4 anni, ha fatto 3 anni molto molto buoni, basta, l'ho detto 3 volte per passare. E poi però nell'ultimo anno ha faticato, nell'ultimo anno ci ha capito poco, si è incartato, ha fatto delle scelte abbastanza incomprensibili, ha cambiato troppi moduli, insomma non è che c'è molto da discutere. No. Ma poi devo dire che ha avuto anche l'onestà intellettuale di rimettersi, che è un gesto, ripeto, rarissimo in Italia, per il quale solo per quello andrebbe ringraziato, perché veramente è una roba che in Italia non si vede mai. Sì. No, questa è la sostanza, insomma, 3 anni eccezionali, perché anche la qualificazione ottenuta per il mondiale è stata ottenuta con grande autorità. Perfettamente. Però, nell'ultimo anno ha lavorato male. Nell'ultimo anno ha lavorato male, d'altra parte no, apposta si fa il ciclo di 4 anni, no? Perché il discrimine è il mondiale, lavori, fai un buon europeo, eccetera. Però se arrivi lì e fallisci in questa maniera, aggiungo, con gli stracci che vuono, quindi in maniera più inelegante in assoluto, allora dimissioni secondo me sono, cioè quantomeno il levarsi di torno è sacrosanto, non fa una piega. Maurizio? Sì, buonasera. Dica. Allora, 2-3 cosine velocissime. Allora, Prandelli ha fatto bene 3 anni e mezzo, ma con Balotelli, con tutti quanti il resto, no? Non è che Balotelli, allora Balotelli tutti lo buttano via, non ho visto un cross, non ho visto una palla data a Balotelli, niente, zero, centrocampo non esisteva, l'unico che ha messo una palla in mezzo è stato Candreva e ha fatto gol. Poi io su questo vuole un allenatore non coinvolto, cioè non un allenatore di società ex Inter, ex Milan. E dove lo andiamo a prendere, Maurizio, sulla luna? Un selezionatore, i mondiali hanno vinto maggiormente i selezionatori. Ma insomma, a parte Lippi, ma anche sì, i mondiali dalle nostre parti, insomma, abbiamo vinto. Pozzo era un senso, va bene, 34-38, poi Berzot, ma poi i tempi sono diversi, quindi non selezionatore, che vuol dire? Vuol dire uno che abbia quell'attitudine lì, ma non esiste il lavoro di selezionatore. Non so, non ho capito se è tornato Pierluigi o no, perché era caduto. Ci sono. Vabbè, su Balotelli non rispondo più, sul selezionatore abbiamo capito, sembra che sia il caso di passare a Fabio da Bologna. Fabio, dica. Buongiorno. Dica. Volevo rimarcare una cosa che sono rimasto un attimo meravigliato. Sono d'accordo che Prandelli abbia fatto 3 anni molto buoni. Sono d'accordo soprattutto sull'altra cosa che lei ha detto prima, cioè il fatto che non è tutto da buttare via il nostro movimento, ci sono dei giocatori giovani per il futuro. Ma il problema più grosso secondo me negli ultimi 8 anni, cioè dopo la fortuna di Berlino, è la preparazione atletica. Le nostre squadre cedono sempre alla fine, cioè a un certo punto cedono. E questo è un fatto. E questo, caro Fabio da Bologna, è un fatto, ed è un fatto ed è forse l'analisi più centrata che si potesse fare, perché Pierluigi, ti ricordi bene quella sera in cui pareggiamo con la Spagna, eccetera, eccetera, no? Quello che disse Prandelli. E allora? Cioè, vedi, guarda le altre come stanno, ma tutte le sudamericane, come stanno giocando dal punto di vista fisico questo mondiale che a noi ha fatto paura ancora prima di cominciare. No, assolutamente, l'aspetto fisico è stato uno dei problemi principali di questa squadra, non ci sono dubbi. Siamo stati assolutamente non all'altezza ed è uno dei capi di imputazione pesanti che ci sono in questa gestione, oltre a una confusione enorme in testa sulle cose da farsi, sui moduli, sui protagonisti, sui ruoli, e una gestione dello spogliatoio assolutamente non all'altezza, insomma. A parte questo tutto bene, mi verrà dire. No, però veramente io non ha ragione Polverosi quando quando ricorda quello che è stato Prandelli per 3 anni, perché sennò veramente no, ma è chiaro Pierluigi, è chiaro. Quella che era questa nazionale 2 anni fa, perché erano gli stessi grosso modo, avevano 2 anni più, 2 anni in meno e tutto quello che vuoi, però il gruppo era questo qui. Senti, dammi un pronostico secco sulle 2 semifinali, sui 2 ottavi di stasera. Passano Francia e Germania, però oggi è banale. Credo che la Francia avrà vita più facile, l'Algeria mi sembra una squadra un pochino più strutturata rispetto alla Nigeria, sì. Però penso che vinceranno tutte e due bene. Questa la indovina anche Cruciani, vuoi dire, insomma, ho capito. Va bene. Giornata interlocutoria, secondo me, oggi a Pittau. Ciao Pierino, ci sentiamo domani. Ciao. Migliore in campo, Kamel, Siracusa, buongiorno. Mourinho per noi non è un allenatore del calcio, quello, signore, da. Quella è nella sua vita, ecco, cosa ha vinto? Che cosa ha procurato? Procurato danno in qualsiasi società che è andato, sia Real Madrid, sia l'Inter. Adesso procura anche del danno a Chelsea. Più la società che ha certi livelli di giocatori, lui ha cercato di comprare altri giocatori di livello internazionale, l'ha comprati sia dell'Atletico Madrid, sia di altre squadre. Lui, se non ha un budget da 900 milioni di euro, da 1 miliardo di euro, lui non vincerà mai niente. Non vincerà mai niente. E vabbè, maglietti tutti convocati per Kamel, invece tutti convocati domani stessa ora, 14, qui su Radio 24, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia, ciao a tutti. Tutti convocati.